Presidente tedesco Christian Wolff, mentre annuncia poche ore fa le sue dimissioni con effetto immediato. Allora, per commentare questa notizia, anche per saperne i motivi, andiamo dal corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte, Alessandro Merli. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Dunque, allora, quali sono i motivi di queste dimissioni e se sono dimissioni improvvise? Ma le dimissioni erano direi attese, anche se forse la tempistica ha sorpreso la stessa signora Merkel, che infatti oggi doveva essere a Roma per incontrare Monti. Sono mesi che il presidente Wolff è sotto pressione. Prima si è scoperto che aveva ricevuto un prestito per acquistarsi una villa da un imprenditore quando era presidente della regione della Bassa Sassonia. Poi aveva cercato di occultare questa operazione, poi si erano scoperti altri favori da altri uomini d'affari, in particolare da un produttore cinematografico che poi ha ricevuto dei sussidi di Stato, quindi tutta una serie di problemi, il peggiore dei quali però è stato una telefonata che lo stesso Wolff ha fatto al direttore della Bild, il quotidiano popolare tedesco, minacciandolo se avesse pubblicato articoli sulla sua vicenda. La novità direi degli ultimi minuti è che dopo le dimissioni di Wolff, la signora Merkel, il cancelliere Merkel, ha dichiarato che per la successione tratterà, sceglierà insieme all'opposizione. Va ricordato che quella di Wolff 2 anni fa fu una scelta imposta dalla Merkel, che forse si voleva anche liberare di un potenziale rivale all'interno del suo stesso partito. Adesso la signora Merkel dice sceglieremo insieme all'opposizione, quindi un tono più conciliante. Non c'è dubbio che le dimissioni di Wolff sono un colpo abbastanza duro anche per lei, proprio perché lo aveva voluto a tutti i costi. Grazie ad Alessandro Merli, buon lavoro. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. L'annullamento della visita a Roma della Merkel, come avete sentito, aveva in un primo momento anche avuto un impatto sui mercati, come ci racconta in diretta Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Sì, buongiorno. Effettivamente si era in qualche maniera anche messa in moto l'indiscrezione che le dichiarazioni che la Merkel avrebbe dovuto rendere in questa conferenza stampa preannunciata per le 11:30, dopo aver comunicato che aveva annullato appunto la visita di Roma, avevano fatto ipotizzare appunto ad una comunicazione da fare relativamente alla questione greca, una circostanza che è stata immediatamente appunto messa da parte dal mercato, che dopo essere partito bene in Europa questa mattina con rialzi che tra Parigi e Francoforte gravitavano intorno al punto, appunto avevano rallentato il passo riducendo un po' i loro guadagni, adesso invece si riportano su questi livelli. Appunto Parigi sale di un punto, Francoforte più 0,98, Londra, che da sempre è un po' più tranquilla rispetto alle altre piazze europee, dissociata potremmo dire, guadagna lo 0,3%, Milano più 0,70% in questo momento, grazie peraltro al volo dei titoli Finmeccanica. Lo spread è anche più tranquillo di ieri, ieri aveva ritoccato i 400 punti base, oggi viaggia sui 370. È tutto. Grazie Deborah. Sul fronte politico, annullata la visita della Merkel a Roma, questa mattina l'attenzione si è spostata su un vertice di maggioranza che si è tenuto alla Camera, dove c'è Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno. Si comincia a delineare l'architettura di quello che potrebbe essere il nuovo Stato italiano. Vertice questa mattina tra Pierluigi Bersani, Angelino Alfano e Pier Ferdinando Casini sulle riforme istituzionali. PD, PDL e UDC convergono sulla riduzione del numero dei parlamentari a 500 deputati e 250 senatori, il superamento del bicameralismo perfetto, la sfiducia costruttiva, il potere di nomina e revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio, la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, quello sulle autonomie regionali. I tempi potrebbero essere rapidi, già prima dell'estate la prima lettura, in autunno la seconda e poi prima delle elezioni la terza e la quarta. Per quanto riguarda la legge elettorale invece ci sarebbe l'intenzione di discuterne appena approvata la prima lettura sulle riforme. E il segretario PDL Alfano ribadisce: tifiamo Italia e sosteniamo Monti. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie, adesso parliamo della riforma del mercato del lavoro, proseguono gli approfondimenti a livello tecnico. Lunedì ci sarà il quarto round del confronto tra governo e parti sociali e in primo piano c'è il tema degli ammortizzatori sociali. Una grande riforma degli ammortizzatori sociali, ampliando anche la platea dei potenziali beneficiari. A questo pensa il ministro del welfare Elsa Fornero, che ha risposto questa mattina ad una interrogazione parlamentare alla Camera. Una riforma che però non avrà immediata operatività. C'è la crisi e dunque per quest'anno si lascerà tutto così com'è, spiega il ministro, senza toccare la cassa integrazione, nemmeno quella in deroga. E proprio agli ammortizzatori sarà dedicato l'incontro di lunedì tra governo e parti sociali, che si terrà presso il Ministero del Welfare e sul quale Fornero si dice fiduciosa, confermando il varo entro marzo della riforma del mercato del lavoro. Una riforma che, dice Fornero, sarà frutto di un aperto e serio confronto con imprese e sindacati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questa volta non siamo gli unici a non aver fatto i compiti a casa, almeno stando alla bacchettata arrivata dalla commissaria alla giustizia Viviane Reding all'audizione pubblica al Consiglio Lavoro a Bruxelles. Solo 23 società europee, tra le quotate in borsa, hanno sottoscritto infatti l'impegno volontario a portare la quota delle donne nei consigli d'amministrazione al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020, appello lanciato da Bruxelles quasi un anno fa. Nei fatti, i dati ad oggi sono ben diversi. In Europa solo il 12% dei membri nei CDA delle più grandi imprese quotate sono donne, appena il 3% se si considerano le posizioni dirigenziali. Le migliori sono Norvegia, Francia, Spagna e Olanda. In Italia la legge entrata in vigore nell'agosto scorso stabilisce che da quest'anno i CDA delle aziende quotate in borsa o a partecipazione pubblica debbano essere composte almeno per un quinto da donne. Nel 2015 la quota aumenterà fino ad un terzo. Ma i mesi cruciali saranno i prossimi in vista della nuova stagione di nomine. Il ministro Fornero ha assicurato che vigilerà e non farà sconti sulle multe previste. A livello di principi, ha spiegato Fornero, in Italia siamo avanti a livello della Svezia, ma a livello pratico lasciamo molto a desiderare. E allora, da Bruxelles come da Roma, il messaggio è lo stesso. La svolta ora non può essere rinviata. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento, ci spostiamo in Grecia, dove la crisi, ma non parleremo della crisi, diciamo, si ripercuote anche sulla sicurezza dei musei e dei luoghi d'arte. Sentiamo i particolari in questo servizio. Il ministro della cultura greco, Pavlos Geroulanos, ha presentato le sue dimissioni dopo il furto di 67 reperti archeologici avvenuti questa mattina nel Museo di Olimpia, dedicato agli antichi giochi olimpici. Le dimissioni sono state date al premier Lucas Papadimos, che si è riservato di accettarle. Il sindaco di Olimpia, Kotsias, ha dichiarato che due uomini a volto coperto e armati hanno immobilizzato l'unica guardia del museo nelle prime ore del mattino, al cambio del turno, e hanno portato via i reperti. Culla dei giochi olimpici, Olimpia viene visitata ogni anno da migliaia e migliaia di turisti. Il furto è avvenuto nel secondo museo della città, dove sono esposti oggetti in bronzo e ceramica usati dagli antichi atleti. Questo è l'ennesimo segnale di come la grave crisi economica Italia, il personale addetto alla sicurezza dei musei, colpisca il già fragile apparato di controllo statale sui preziosissimi beni culturali greci e riaccenderà la polemica tra Atene e Londra, che si rifiuta di restituire i fregi originali del Partenone conservati al British Museum a Londra, adducendo tra l'altro problemi di sicurezza. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Atene. E noi continuiamo a parlare di arte, di antiquariato, ma di quello legale. Secondo una ricerca Nomisma, il nostro mercato si difende bene, ma è ancora troppo piccolo. Un mercato dell'arte ancora troppo esiguo, quello italiano, poco internazionale e condizionato più che dalla crisi economica e finanziaria, dagli scambi in nero e da una scarsa attenzione per i nuovi investitori. È quanto emerge da una ricerca Nomisma realizzata in collaborazione con l'Università LUM, che sarà presentata al pubblico sabato in occasione di Modena Antiquaria. Questo mercato nel nostro paese vale complessivamente 1,4 miliardi di euro, ma in campo internazionale il peso italiano è appena passato dal 2 all'1%, così come è calato il fatturato delle 7 case d'asta più importanti nella penisola, che ha perso tra il 2010 e il 2011 oltre 2 milioni e mezzo di euro. Ma il comparto resiste, almeno secondo Marco Marcatili, analista Nomisma e coordinatore dell'osservatorio. il mercato dell'arte prova a difendersi e si difende abbastanza bene, in particolare per l'antico, perché negli ultimi mesi nelle aste internazionali gli old masters hanno migliorato le proprie performance in termini di lotti venduti, tenta di difendersi perché la politica commerciale attuata dagli intermediari professionali impegnati nel comparto dell'antico hanno oculatamente rivisto verso il basso i prezzi e quindi sostenuto le compravendite. Il 2012 però parte male. Gli operatori si mantengono cauti, ma sembra lecito comunque attendersi un settore in movimento costante. Prezzi ancora verso il basso per spingere le vendite nell'antico e al contrario una certa rigidità nel moderno e nel contemporaneo. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo della Siria. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato una via per la risoluzione della crisi siriana. Così il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha commentato la risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ieri sera. Una maggioranza schiacciante, quella che ha approvato la risoluzione di condanna della repressione in atto in Siria, costata la vita già a migliaia di persone. I sì sono stati 118, 12 voti contrari, 17 gli astenuti. Un testo che non ha potere vincolante e che tuttavia ha un grande valore simbolico e di pressione politica sul governo di Damasco. Per il segretario generale Ban Ki-moon si è indicata una via per la risoluzione della crisi che possa garantire un futuro di pace e di democrazia per tutti i cittadini. Russia e Cina, dopo aver bloccato per due volte con l'uso del veto l'azione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, hanno votato anche contro il testo presentato dall'Egitto in rappresentanza dei paesi arabi. Intanto le violenze continuano. Gli attivisti parlano di un nuovo bombardamento sulla città di Homs, 4 razzi al minuto, una delle offensive più pesanti degli ultimi giorni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda parte di GR24, queste le notizie principali. In apertura, le dimissioni del Presidente della Repubblica tedesca. È stato annullato l'incontro previsto in mattinata tra Monti e la Merkel. C'è stato invece alla Camera un incontro tra i leader della maggioranza per trovare un accordo sulle riforme costituzionali. Abbiamo parlato della Siria, ancora bombe purtroppo sulla città siriana di Homs. Ieri sera la condanna da parte delle Nazioni Unite. Finta cieca, truffato all'INPS 235.000 euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Questa signora di ultra sessantenne, originaria della provincia di Palermo ma a Pinerolo da quasi 40 anni, aveva ottenuto una pensione di invalidità dichiarando di essere cieca, totalmente cieca. Ma noi l'abbiamo seguita e l'abbiamo sorpresa ad attraversare la strada attentamente sulle strisce pedonali, rispettava i semafori, osservava le vetrine, sceglieva le merci al mercato, e il tutto senza alcun ausilio tipico delle persone non vedenti, cioè occhiali scuri oppure un cane guida oppure bastone bianco. Quando l'avete beccata, se così si può dire, ha detto qualcosa? Ha cercato di trovare delle scuse dicendo che nel mentre la sua condizione era migliorata, che non era sua intenzione truffare, ma insomma sono scuse veramente dell'ultimo momento. Abbiamo sentito questa intervista che è stata realizzata da Maria Piera Ceci al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino, generale Giuseppe Gerli, che ci ha parlato di questa truffa, di una finta cieca che ha rubato all'INPS 235.000 euro che naturalmente ora dovrà restituire. Ci sono parecchie notizie della giornata che riguardano falsi e illeciti scoperti dalle forze dell'ordine. Una notizia riguarda l'Italia e la Svizzera. Sono stati intercettati bond statunitensi falsi per un valore di 6.000 miliardi di dollari, sequestrati a Zurigo in Svizzera dai carabinieri del ROS su disposizione della Procura di Potenza. I titoli falsi, apparentemente emessi dalla Federal Reserve nel 1934, erano contenuti in 3 casse. La falsità dei bond è stata accertata da funzionari della Federal Reserve e da personale dell'ambasciata americana di Roma. Altre due notizie riguardano operazioni della Guardia di Finanza. È stata scoperta una maxi evasione fiscale dalle Fiamme Gialle di Varese al termine di un'indagine nei confronti di una società che produce componenti per le trasmissioni meccaniche. Le Fiamme Gialle hanno denunciato 7 persone ed effettuato un sequestro preventivo di beni per un ammontare complessivo di circa 27 milioni di euro. E un'altra operazione ha intercettato una frode fiscale da 10 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, che ha arrestato 5 persone e ha effettuato oltre 50 perquisizioni in Veneto, Lazio e Lombardia. Il gruppo criminale era specializzato in frode fiscale mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Adesso c'è la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Affittava in nero 17 delle sue 40 case di proprietà ad immigrati. Poi però il pensionato milionario aveva avuto anche il coraggio di chiedere aiuto ai servizi sociali per avere prestazioni agevolate, dichiarando un patrimonio mobiliare e immobiliare pari a zero, nonostante disponesse, oltre che di 40 case, di 19 conti correnti, per un patrimonio di 2 milioni e mezzo di euro. È il caso più eclatante di una vasta operazione che riguarda gli affitti in nero portata avanti da mesi a Padova, dove continua una felice collaborazione, unico caso in Italia, fra Guardia di Finanza, Prefettura, Comune e Università. Vittime spesso gli immigrati clandestini, come spiega il colonnello della Guardia di Finanza, Ivano Maccani. Come avete sentito c'è un problema alle nostre macchine, vedremo se riusciremo a recuperare questa intervista. Adesso proseguiamo parlando dei pronto soccorsi di Roma. Dopo la denuncia pubblica dei medici, politici ed ammalati sulla situazione nell'ospedale San Camillo, la Procura di Roma ha deciso una ricognizione in tutti i pronto soccorso della capitale per verificare eventuali carenze e disfunzioni strutturali. Un fascicolo processuale senza ipotesi di reato e senza indagati. Sotto la lente ci sono tutti gli ospedali della capitale. Valeria De Rosa ha raccolto la testimonianza di una dottoressa in forze al Policlinico di Tor Vergata, 50.000 accessi al pronto soccorso nel 2010 per 420 posti letto. Il pronto soccorso di Tor Vergata è uno dei più estesi sul territorio del Lazio, ha un bacino d'utenza molto ampio che è aumentato negli ultimi anni e ultimamente, a causa della mancata sostituzione dei medici in maternità, si è creato un sovraccarico di lavoro per i medici. Inoltre gli spazi destinati ai pazienti non sono sufficienti. Spesso i pazienti sono costretti ad essere ricoverati su sedie reclinabili o barelle che sono insufficienti. Ci sono stati casi in cui anche le ambulanze se non potevano svolgere il proprio lavoro in quanto le barelle delle ambulanze sono rimaste bloccate nel pronto soccorso. La sala della breve osservazione è spesso affollata ed è impossibile anche per i medici consulenti effettuare in situazioni adeguate una visita, un'anamnesi del paziente, proprio perché le barelle sono numerosissime e non consentono ai medici e agli infermieri di camminare tra un paziente e l'altro. La sala dove vengono ricoverati i pazienti più gravi, mi dicevi, c'è anche in questo caso una carenza proprio di personale. Sì, il medico destinato alla sala rossa, la sala dove vengono ricoverati i codici rossi, ovvero i pazienti in situazioni critiche e gravi, sono spesso sovraffollate ed un unico medico deve gestire contemporaneamente anche 9-10 codici rossi contemporaneamente. Adesso cambiamo argomento. La Corte Europea di Giustizia ha stabilito che un social network o qualsiasi altra piattaforma che ospita contenuti generati dagli utenti non possa filtrare e controllare quei contenuti per verificare, ad esempio, se alcuni di essi siano coperti o meno dal diritto d'autore. Ecco l'analisi di Innocenzo Genna, esperto della normativa europea nel mercato delle telecomunicazioni. Le piattaforme internet, operatori tipo YouTube, Facebook ed altri, non possono essere obbligati a monitorare, filtrare i contenuti che vengono caricati dai clienti sulle loro piattaforme. In questo modo è stata resa una sentenza che è speculare a quella di novembre, dove lo stesso principio era stato posto per i fornitori internet, cioè per coloro che danno la connettività all'entrata alla rete, come Fastweb o Telecom Italia. Quindi non si può filtrare il traffico internet, sia che siano comunicazioni nella rete, sia che siano contenuti caricati sulle piattaforme sociali o su altri tipi di servizi. Questo è un risultato positivo soprattutto per l'industria di internet, social network, in questo caso, ma nel caso della sentenza di novembre, gli internet service provider, o in qualche modo ha anche delle conseguenze sul consumatore finale? Dunque, è positivo per entrambi, è positivo per l'industria perché l'industria in questo modo viene sollevata da una responsabilità, perché se fossero stati costretti a fare queste attività avrebbe significato che avevano una qualche responsabilità giuridica per quello che fanno gli utenti nella rete e poi avrebbero anche dovuto avere una serie di costi di investimenti supplementari che avrebbero peraltro anche impattato negativamente sulla performance delle reti e dei servizi, perché filtrare il traffico vuol dire rallentarlo. Però ha delle ricadute molto positive e molto importanti anche per gli utenti, perché il principio che si è detto è che non ci può essere una sorta di censura preventiva su quello che gli utenti si scambiano o che caricano sulle piattaforme sociali. In questo modo l'utente resta responsabile di quello che fa, perché se l'utente scambia dei file protetti al diritto d'autore o comunque li mette in condivisione con modalità non lecite, comunque l'utente ne è responsabile, però non gli può essere impedito preventivamente di farlo. Ed è questo importante, perché nel fare questa attività la gente non necessariamente vuole fare cose illecite, vuole semplicemente comunicare, scambiare informazione, e questo è l'essenza della democrazia. Cioè, la Corte ha voluto dire che la gente deve essere responsabile di quello che fa, però deve essere lasciata libera di fare quello che vuole, dopodiché se fa degli errori eventualmente pagherà per gli errori. Sono le 13:25 minuti, adesso ci spostiamo a Sanremo. Marta Cagnola, buongiorno, ciao Marta. Buongiorno Enrico. Allora, quali sono i commenti? Tutti i giorni si fanno i commenti agli ascolti, ma immagino insomma ci siano altre novità. Beh, intanto gli ascolti vengono definiti eccellenti dalla direzione di Rai 1 per la terza serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti. Ha guadagnato 1.340.000 spettatori e 8,5 punti di share rispetto alla seconda serata. C'erano per la prima parte 12.770.000 persone, 45,63, e nella seconda 57,16%. Si conferma, bisogna sottolinearlo, il calo sul 2011, però dobbiamo ricordare che l'anno scorso la serata del giovedì ospitò la straordinaria performance di Roberto Benigni. La media delle prime tre serate del secondo festival condotto da Gianni Morandi è di 10.750.000 spettatori, con il 45-49%, leggermente inferiore al 2011 e al festival 2005 di Paolo Bonolis. Bene Marta, grazie, ci sentiamo più tardi per altre notizie. Concludiamo con un paio di brevi sullo sport. La prima riguarda la Formula 1, che inizia, come alcuni di voi ricorderanno, il 18 marzo a Melbourne in Australia. Non ci sarà alcun italiano, è infatti già finita l'avventura di Jarno Trulli alla scuderia anglo-malese Caterham, conosciuta finora come Lotus. L'ultima notizia riguarda il calcio. Questa sera anticipi della giornata con Inter, Bologna, Fiorentina, Napoli, partite che sono previste in calendario alle 20:45. Sono le 13:27 minuti. È tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Enrico Pagliarini, che vi auguro una buona giornata. Grazie anche a Filippo Aureggi, che si è occupato della parte tecnica. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.